so per me. Se non devo andare so per me. Se non devo andare so per me. Star devo andare.